no ha saltado care riere del mio compagno cade viola cade mio qui cade moria e queste sorte dove io ero cantato ah se ne viola che cantava se un uomo se un soffio tu una flauta di riri e tu una flauta da saltare per la Cade viola, cade mio figlio, cade morire.